Se potessi ridisegnare la mia vita lo farei, cancellando le persone inutili, quelle che han capito tutto, parlano senza un perché, che dicono di amarti e non san fingere. Farei scomparire i temporali e gli inverni miei, castigherei il mare se fai capricci e poi prosciugherei le lacrime di chi non è nato mai, colorerei i silenzi piombati su di noi, ti cancellerei per ridisegnarti dentro me, per non dimenticarti mai, ma lo sai, credevo di amarti e invece no, molto di più. Le ombre bruciano negli occhi con tutta l'energia di un grido silenzioso in questa mente mia, e mi trasformo in un mostro che non amerai, e la notte vago e sento i respiri tuoi. Congiungerei sole e luna, buoni amici ormai, distruggerei per ridisegnarti dentro me, per non dimenticarti mai, ma lo sai, credevo di amarti e invece no, molto di più.